GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le 12:15 minuti, ancora un buongiorno e una buona domenica da Giorgio Bearz per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 12 ottobre. In primo piano la disputa della Barcolana numero 57 nel Golfo di Trieste con la vittoria di Arca, timonata dal triestino Furio Benussi. Il vento calato nettamente a metà mattinata ha rallentato la regata. In contemporanea allo svolgimento della Barcolana c'è stata la protesta di una trentina di manifestanti pro PAL con un presidio che da Piazza Ponte Rosso ha tentato di raggiungere Piazza Unità d'Italia, ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Vigili del fuoco all'opera a Trieste per un incendio scoppiato proprio durante la disputa della Barcolana nel molo terzo del Porto Vecchio nell'ex magazzino Tripkovic, in un'area occupata da bivacchi abusivi di migranti che potrebbero aver originato le fiamme. Poi la manifestazione dell'ANU in Gorizia in occasione della 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti. Infine il convegno su Gaza organizzato al Centro Balducci di Zuliano come momento di approfondimento in vista della partita Italia-Israele del 14 ottobre a Udine. 1865 le barche che al colpo di cannone delle 10:30 sono scese in acqua questa mattina nel Golfo di Trieste per la disputa della Barcolana numero 57, un numero che non si raggiungeva dal 2019, quindi prima della pandemia. Prima Arca. E sentiamo però come sta andando, anzi come è andata la cosa, perché la regata è finita proprio da pochi secondi, vero Sebastiano Franco? Sì, Barcolana numero 57 che anche questa volta ha celebrato il connubio fra Trieste e il mare in un modo davvero spettacolare, in un campo di regata formato da un quadrilatero della lunghezza di 13 miglia nautiche. Vento di Borino in partenza con Marta 07 che trova la testa della regata sul primo lato, ma in prima boa è Arca di Furio Benussi, la grande favorita a passare per prima. Il vento cala, Arca gestisce con 4 nodi di velocità fino al passaggio alla seconda boa, e sul terzo lato la difficoltà maggiore è rappresentata dall'incrocio con le tantissime imbarcazioni ancora impegnate sul primo lato e lo spettacolo unico della Barcolana. Dopo la terza boa al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata che conduce all'arrivo. Arca veleggia a 12 nodi verso Piazza dell'Unità grazie all'aria di Ponente. L'equipaggio è tutto sopravvento nelle immagini che conducono alla terza vittoria consecutiva della Barcolana per Arca di Furio Benussi. Dietro a loro Marta 07, dove c'è la figlia di Benussi, Marta, e il fratello Gabriele. Trieste questa volta celebra il loro trionfo. Grazie a Sebastiano Franco, e ancora una volta si è confermata la tradizione che vede che il finale della Barcolana avvenga sempre in contemporanea al giornale radio delle 12:15 della domenica. È una bella cosa comunque questa. E poco prima della partenza della Barcolana è scoppiato tra l'altro un incendio nel molo terzo del Porto Vecchio dell'ex magazzino Tripkovic. Sul posto a spegnere il rogo sono intervenute 4 squadre di vigili del fuoco con autobotte e autoscala provenienti dal comando di via Dalviano e dal distaccamento di Opicina insieme ai colleghi del nucleo nautico. È seguita una ricognizione delle stanze all'interno alla ricerca di eventuali persone rimaste a punto dentro, visto che l'area è da tempo occupata da migranti con bivacchi abusivi. E in contemporanea allo svolgimento della Barcolana c'è stata questa mattina anche la protesta di una cinquantina di manifestanti pro PAL con un presidio che da Piazza Ponte Rosso ha tentato di raggiungere Piazza Unità d'Italia, ma è stato respinto da un serrato cordone di forze dell'ordine in tenuta antisommossa che ha impedito loro di avanzare. Tra slogan come Palestina libera, resistenza vincerà e bandiere della Palestina, i manifestanti sono rimasti in Piazza della Borsa tra gli stand per la Barcolana. Una cinquantina di manifestanti pro-Palestina sta animando la giornata clou di Barcolana 57. Si sono dati ritrovo in piazza Ponte Rosso per poi dirigersi in piazza della Borsa in pieno villaggio Barcolana. Da prima tranquilla, la situazione si è animata con lo schieramento di ulteriori reparti dei carabinieri in assetto antisommossa. Nell'arginare il perimetro del presidio si sono vissuti alcuni attimi di tensione tra alcuni manifestanti e gli agenti della polizia. Nervosismo poi rientrato, ma Piazza della Borsa è rimasta divisa in due dal cordone di carabinieri e polizia. Furgoni della Forza dell'Ordine sono schierati sulle vie principali che portano verso le rive. Il presidio è ancora in corso. Situazione ideale invece in Piazza Unità e nel resto del villaggio, folla siepata sul Mole Audace, dove è previsto l'arrivo dei vincitori e la conseguente premiazione. Tantissimi radunati anche davanti i maxi schermi. Zone ristoro piene. Attrazione principale il battiscafo Trieste davanti il Palazzo del Comune. Le condizioni meteorologiche sono ideali per far proseguire la festa fino a tarda serata. Dalle rive, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. A causa di un guasto all'impianto della funicolare, il servizio della linea 2 tram per Opicina è temporaneamente sospeso. Il problema è già stato individuato, afferma una nota del comune. I tecnici sono al lavoro per consentire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. E per garantire il trasporto di tutti i passeggeri tra Trieste e Opicina, le corse della linea 64 vengono potenziate e il personale di Trieste Trasporti presente ai capolinea del servizio tranviario è a disposizione per fornire assistenza e indicazioni sulle partenze delle corse sostitutive su gomma. Finito questa parentesi sulla Barcolana e sulle manifestazioni collaterali che ci sono state a Trieste, cambiamo argomento, ma rimaniamo nella cronaca, perché alle 9.45 di oggi c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter, che è stata registrata con epicentro tra i comuni di Preone e Verzegnis a 10,2 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. E vediamo quindi qual è la situazione attuale del meteo. Il cielo è da sereno a variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste e Udine 19 gradi, a Gorizia 19 gradi e mezzo, a Pordenone 18 gradi, a Tolmezzo 12 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 12 gradi, a Sappada 10 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 10 gradi, a Piancavallo 9. Sul Monte Lussari 10 gradi, sullo Zoncolan 7 gradi e mezzo, passando alla costa a Grado 19 gradi, a Lignano 18 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. In montagna cielo variabile per la presenza di nubi basse e tempo migliore in quota. In pianura da poco nuvoloso a variabile con più nubi a ovest, sulla costa sereno. Sulla costa nel pomeriggio soffierà brezza debole. Oggi ricorre la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro con il patrocinio della RAI. L'ANMIL in Friuli Venezia Giulia ha organizzato una giornata a livello regionale cui seguiranno iniziative nelle sedi provinciali. La cerimonia principale si tiene a Gorizia in Piazza Vittoria ed è organizzata dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. In occasione della giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, che si celebra anche questa oggi, l'associazione Cool Down lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Nessuna decisione senza di noi, che punta a una maggiore inclusione delle persone con sindrome di Down e con disabilità in generale nelle stanze dove si decide, questo è il titolo. In oltre 200 piazze in Italia i volontari delle associazioni aderenti al coordinamento nazionale distribuiscono un messaggio di cioccolato che sostiene progetti volti all'autonomia e alla tutela dei diritti delle persone con sindrome di Down. In regione il banchetto è presente a Concordia Sagittaria. Gaza, ferita dell'umanità, il tradimento del diritto internazionale, il titolo del convegno organizzato dal Centro Balducci di Zuliano, concepito come momento di approfondimento in vista della partita Italia-Israele del 14 ottobre a Udine. Presente anche Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Sentiamo proprio un suo commento sull'accordo raggiunto di recente per un cessate il fuoco. In questi giorni c'è un respiro di sollievo per l'annunciato ritorno degli ostaggi, quelli ancora vivi nelle mani di Hamas, e delle salme di quelli morti, per il ritorno in libertà di detenuti palestinesi arbitrariamente in carcere, per la fine dei bombardamenti, per il ritorno degli aiuti umanitari. Però nel medio periodo c'è una grande incertezza, intanto nell'attuazione di alcuni dei dettagli della parte già accettata di questo accordo, ma poi per l'assenza di parole chiave come diritti, come giustizia, per l'assenza in questo tavolo delle trattative dei protagonisti diretti, loro malgrado, cioè le persone palestinesi, chi le governerà, quale sarà il loro futuro, quali saranno i loro diritti. E torno sul tema della giustizia. Questo accordo non può significare un colpo di spugna sui crimini di diritto internazionale commessi a partire dal 7 ottobre, che sono i più gravi crimini del diritto internazionale. Quindi deve arrivare il tempo della giustizia e non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto in questi due anni. La preoccupazione è esattamente questa, che al concetto di diritti umani per tutte e per tutti si sostituisca il concetto del diritto del più forte, che organizza tavoli, disfa tavoli, invade. Il sistema di protezione internazionale dei diritti umani nato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è al collasso. Zuliano, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, è atterrata alle 4 del mattino all'aeroporto di Ronchi dei Legionari la nazionale italiana di calcio proveniente da Tallinn, dove ieri sera ha battuto per 3-1 l'Estonia nella gara valevole per le qualificazioni ai mondiali USA del 2026. Gli azzurri sono stati accolti da un discreto numero di agenti di polizia di Stato e della Digos, che successivamente li hanno accompagnati in un hotel di Butrio che diventerà il quartier generale blindato fino alla partita di martedì sera allo stadio Friuli contro la compagine israeliana. Oggi è previsto alle 16:30 un allenamento defatigante a porte chiuse in un impianto della zona. Basket in Serie A, la Pudine ha perso in casa l'overtime con Virtus Bologna 80-82, era più 4 a 27 secondi dalla fine, poi condannata da 6 punti consecutivi di Edwards e 2 palle perse in attacco di Bruton, migliore in campo fino a quel momento. La Pallacanestro Trieste ha invece vinto a Napoli 84-79 con un ultimo quarto molto convincente, decisivo il discusso Colby Ross con una sequela di iniziative personali nell'ultimo periodo che hanno praticamente deciso la gara a favore di Trieste. In A2 le scende in campo alle 18 la Gesteco Cividale in cerca di punti in casa dell'Unieuro Forlì. Nella 1 femminile sconfitta per le ragazze della Futurosa Trieste in casa contro Ragusa per 74-82. Calcio in Serie C, la Triestina giocherà quest'oggi in trasferta in casa del Cittadella, fischio d'inizio alle 14:30. E per la pallavolo in Serie A2 femminile la CDA Talmassons affronta in casa la Leonessa Volley Altamura alle 16. Fra poco su Rai 3 la nuova trasmissione della TGR Alta Quota ci porterà là dove il cielo incontra la terra, sulle montagne d'Italia, tra vette silenziose, borghi sospesi e sentieri poco battuti. Da oggi, ogni domenica alle 12:25, un viaggio tra panorami mozzafiato e testimonianze autentiche, umanità e paesaggio per esplorare la montagna. Alta Quota, l'Italia vista dall'alto, raccontata da vicino proprio ora su Rai 3. Ricordandovi che Arca ha vinto ancora la Barcolana, la terza volta di fila, la grande barca da competizione condotta da Furio Benussi ha vinto per la terza volta di fila la Barcolana dopo aver passato l'ultima boa, la grande festa è ora sulle rive di Trieste con la passerella davanti a migliaia di persone assiepate a terra in una giornata splendida. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Giuliano Pecorari. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. Prossimo appuntamento con il GR alle 18:30. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.